GR24, il sole 24 ore. UE pressing su Monti, Napolitano nessun allarme per le sue dimissioni. Il maltempo colpisce il nord, neve a Genova, Milano e Torino. In Regione Lombardia lo scandalo dei rimborsi, indagati 40 consiglieri di PDL e Lega. Papa Benedetto XVI, le leggi su eutanasia e aborto sono reali minacce per la pace. Buona giornata dalla redazione e da Adriana Fra, che prosegue il pressing europeo sulla candidatura di Mario Monti, e il premier francese François Hollande non risparmia critiche a Berlusconi. Non ha futuro, dice. In diretta da Bruxelles ci colleghiamo subito con Gerardo Pelosi, buongiorno. Buongiorno a voi. Da pochi minuti si è concluso il Consiglio europeo, l'ultimo del 2012, con un'approvazione dei documenti che erano già stati approvati dell'Eurogruppo, e cioè la vigilanza unica bancaria e il via libera ai 34 miliardi di aiuti alla Grecia. In discussione anche il sistema unico di risoluzione delle crisi bancarie, che seguirà un timing già previsto. Ma sul tavolo c'è ovviamente il pressing nei confronti di Mario Monti. Il capogruppo del PDL all'Europarlamento, Mario Mauro, che è stato un po' l'artefice della presenza ieri di Monti alla vertice del PPE, questa vicenda del pressing a Monti sta sparigliando le carte della politica italiana e sta creando qualche problema anche alla PD, tant'è che l'ex premier e presidente attuale del Copasir, D'Alema, ha detto che la candidatura di Monti è moralmente discutibile. Siamo in attesa adesso, tra pochi istanti, del presidente del Consiglio Monti, che terrà una conferenza stampa sui risultati del Consiglio europeo, ma è lecito immaginare anche su questo pressing qual è la sua soluzione. Grazie. Grazie a Gerardo Pelosi. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano interviene sulla crisi di governo all'incontro con il corpo diplomatico. Ci aggiorna su questo in diretta Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Assicura sul quadro politico dopo le dimissioni di Mario Monti e invita comunque all'ottimismo sulla situazione economica e sul futuro del Paese. È un capo dello Stato fiducioso, quello che parla agli ambasciatori in occasione della tradizionale cerimonia per gli auguri in Quirinale. Sentiamo un passaggio del suo intervento. Non ci si lasci allarmare, signore e signori ambasciatori, dalle tensioni che hanno investito nei giorni scorsi il governo Monti, provocandone le dimissioni. Questo difficile passaggio sarà superato. Banco di prova del senso di responsabilità e della vocazione europea di ogni forza politica sarà il non mettere a rischio i progressi conseguiti dall'Italia attraverso sforzi intensi e sacrifici dolorosi. L'Italia, insomma, non si discosterà dagli impegni presi in sede europea e dal confronto elettorale, uscirà un impegno in questo senso, assicura ancora una volta il capo dello Stato, che ricorda quali siano le priorità: riformare la governance dell'area euro, ristabilire le condizioni di competitività che alimentano crescita equilibrata e occupazione. Visto il particolare contesto napolitano, infine, assicura anche sulla politica estera italiana: l'asse portante non cambierà nel naturale succedersi dei parlamenti e dei governi, così come non cambierà il rispetto degli impegni presi. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Ora veniamo alle reazioni della politica. Rilanciata da Berlusconi e da ieri sostenuta anche dal PPE, l'ipotesi di una candidatura di Monti oggi sembra aver in parte ricompattato il Popolo delle Libertà. L'idea piace soprattutto all'ala moderata, che dopo l'annuncio della discesa in campo di Berlusconi, così come gli ex AN, sembrava pronta anche ad una scissione che ora appare invece più lontana. I falchi del partito sono però scettici. Con Monti candidato, il PDL perderebbe la sua ragion d'essere, spiega oggi Bondi. Anche la Lega, con Tosi, stamattina ribadisce il suo no ad una coalizione guidata da Monti o da Berlusconi. Nello schieramento opposto, invece, la proposta di candidare Monti sta creando qualche imbarazzo, soprattutto al Partito Democratico. Se Bersani si dice sicuro che dalle urne uscirà una maggioranza solida, oggi D'Alema aggiunge però che sarebbe moralmente discutibile se il professore, dopo l'esperienza da tecnico, decidesse di scendere in campo contro il PD, una delle principali forze politiche della sua maggioranza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso sentiamo la posizione della Lega con l'intervista di Alessandro Milan a Matteo Salvini. Numeri alla mano, Monti ha fallito da tutti i punti di vista economicamente parlando, è chiaro che l'Europa invece lo rivorrebbe, perché ha messo in sicurezza le banche e ha tirato fuori miliardi di euro che sono finiti in Grecia, peraltro non all'Italia, quindi fossi nell'Europa vorrebbe una vita monte. E invece con Berlusconi come sono i rapporti? C'è una possibilità di alleanza? Escluso che la Lega possa sostenere qualunque cosa che puzzi di Monti, e con Berlusconi non si torna indietro, non si va avanti. Io cosa devo fare? Da segretario della Lega in Lombardia faccio una campagna elettorale dove devo parlare dei treni pendolari che non funzionano, delle aziende agricole che chiudono con Berlusconi. Con Berlusconi di che cosa parlo? Per due mesi di bunga bunga, di giustizia, eccetera, eccetera. Però una spallata servirà. E ora per il punto, in diretta con noi Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. La durissima intervista di Massimo D'Alema contro l'ipotesi che Monti scenda in campo e si candidi alle elezioni alla testa, diciamo così, di un fronte moderato, conferma che le cose sono andate molto avanti. Dopo l'investitura europea, Monti, in una posizione che dovrà definire il suo impegno politico molto rapidamente, come versione italiana dei popolari europei, e il Partito Democratico di Bersani si trova di fronte a un improvviso e molto scomodo cambio di scenario. Da come saprà reagire il Partito Democratico al di là dell'irritazione del primo momento dipenderà l'evoluzione degli assetti politici in Italia, in un senso che sia realmente europeo, e dipenderà naturalmente la stabilità della prossima legislatura. Grazie Stefano Folli. Intanto in un sondaggio dell'SVG continua a salire, il PD guadagna quasi un punto percentuale in una settimana, più 0,8%, e si conferma come primo partito con il 31,1%. Perde invece più di mezzo punto percentuale il Movimento 5 Stelle, meno 0,7%, che segue così i Democratici con il 19%. Forte ripresa del PDL che in 7 giorni guadagna quasi 3 punti percentuali, più 3,7%, attestandosi così complessivamente al 16,5%. Il debito pubblico italiano sfonda quota 2.000 miliardi e ad ottobre si attesta a 2.014 miliardi, in assoluto il livello più alto di sempre. A fine settembre era arrivato a quota 1.995 miliardi. E quanto emerge dal supplemento finanza pubblica al bollettino statistico della Banca d'Italia, da cui emerge anche che le entrate tributarie dei primi 10 mesi dell'anno segnano un incremento del 2,9% rispetto allo stesso periodo del 2011. Le immatricolazioni europee di auto a novembre sono diminuite del 10,1%, attestandosi a 965.918 unità. Lo rende noto l'ACEA, l'Associazione Continentale dei Costruttori, guidata dall'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne. E proprio il gruppo Fiat ha accusato una flessione del 12,8% con 59.152 unità vendute, con la quota di mercato che è scesa al 6,1% dal 5,3% dello stesso periodo del 2011. E ora sentiamo da Valentina Furlanetto come vanno le borse. Buongiorno. Sì, buongiorno. Oggi la borsa di Milano si avvia a chiudere una settimana che era iniziata, lo ricorderete, lunedì scorso con un calo del 2,2%. Dicevamo a chiudere forse in positivo, è poco sopra la parità, FTSE MIB più 0,32% e a metà di questa seduta è più 0,30% anche Francoforte, mentre Parigi e Londra sono intorno alla parità. Fiat cede il 2,59% ed è la peggiore del listino principale in una giornata in cui è arrivata a cedere anche il 6% a causa delle notizie sulle immatricolazioni in Europa e per il lingotto che Adriana citavi poco fa, ma anche di notizie di stampa che vedono Fiat a un passo da un possibile aumento di capitale fra 1 e 2 miliardi di euro finalizzato a comprare le minoranze di Chrysler. Il titolo in apertura cedeva al 5, dicevamo, poi in sospensione, poi a meno 6, ora ha ridotto il calo, ma con un boom di scambi che non si vedeva dagli ultimi 30 giorni. Exor meno 1,27, Mediaset meno 1%, tra i positivi di Azurin più 1,86, Saipem più 1,62. Euro sul dollaro 1,30 e 89 e spread stabile. Per ora è tutto. Grazie a Valentina Furlanetto. Ora veniamo al maltempo. Mentre per Marrano per tutto il giorno precipitazioni nevose su Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna occidentale, è attesa un'attenuazione delle nevicate sull'area piemontese e ligure. A Torino e dintorni c'è un momento di tregua dopo che sono scesi 4-5 cm di neve a Torino, appunto, a 10 nell'Alessandrino, a 20-40 cm sulle alture, ma non ci sono situazioni di criticità, secondo Anna Costantini della Protezione Civile della Regione. Ieri è uscito questo bollettino con la criticità ordinaria, il valore 1, nelle zone del Piemonte meridionale, ecco. Adesso c'è appunto l'aggiornamento che ci ha fornito questa mattina il centro funzionale regionale, e la tendenza è di un miglioramento, cioè diciamo di una pausa dei fenomeni nelle ore centrali della giornata e una ripresa nel pomeriggio sia delle nevicate che anche un rinforzo dei venti. E ora ci colleghiamo con Andrea Ferro per sentire com'è la situazione in Liguria. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno Adriana, ci sono zone collinari della città di Genova di fatto ancora isolate, la neve è subito diventata ghiaccio e la macchina comunale ha faticato a mettersi in moto per una sostanziale sottovalutazione delle precipitazioni da parte del servizio meteo regionale. Le previsioni infatti indicavano solo lievi spolverate sulla costa, dove invece è nevicato per tutta la notte e temperature non così basse. In tilt anche la circolazione dei bus sulle alture, anche se in queste ultime ore la situazione sta lentamente migliorando e alcune linee sono state via via ripristinate. Oltre al gelo imperversa il vento che ha fatto una strage di alberi in tutta la città. Il comune ha chiuso parchi e cimiteri in due terminal del porto, sospese le operazioni di carico e scarico delle navi. Sul fronte dei collegamenti dall'alba è andata completamente in tilt la circolazione dei treni a causa degli scambi ghiacciati alla stazione di San Pier d'Arena, praticamente uno snodo nevralgico della rete. Ritardi di ore, convogli fermi in stazione, cancellazioni, ripercussioni sul traffico a lunga percorrenza tra la dorsale tirrenica e il nord-ovest. Ora, dice Trenitalia, il traffico è ripreso, ma ci vorrà molto tempo per tornare alla normalità. Sulle autostrade la situazione è critica lungo la Savona-Torino, dove nevica forte. La Polstrada fa da staffetta ai convogli dei mezzi pesanti. Temperature polari nelle vallate interne. Per le prossime ore il meteo regionale annuncia un graduale miglioramento, anche se da qualche minuto su Genova sta cadendo una pioggia ghiacciata. Per il momento è tutto, Adriana, ti restituisco la linea. Grazie ad Andrea Ferro. Eutanasia, aborto e matrimoni gay sono gravi minacce per la pace. Chi vuole la pace non può tollerare attentati e delitti contro la vita, si legge questo nel messaggio di Benedetto XVI per la Giornata Mondiale della Pace che sarà celebrata il 1 gennaio del 2013. Un messaggio nel quale il Papa ha anche parlato delle unioni gay che destabilizzano il matrimonio e della difesa dei diritti, primo tra tutti quello al lavoro. Ora veniamo all'inchiesta sui rimborsi al Pirellone. Nel mirino sono finiti 40 consiglieri della maggioranza della giunta uscente guidata dal governatore Roberto Formigoni. Non c'è pace per il Pirellone. Oltre una ventina di inviti a comparire sarebbero già stati consegnati ad altrettanti consiglieri regionali della Lombardia, in maggioranza del PDL e della Lega. Altri inviti dovrebbero partire a breve. L'ipotesi di reato è quella di peculato, avere cioè utilizzato i rimborsi elettorali e regionali anziché per l'attività politica per spese personali. Pranzi, cene, sigarette, anche scatole di cioccolatini per svariati milioni di euro. Tra gli oggetti acquistati con soldi pubblici ci sarebbero anche munizioni da caccia per 750 euro da parte di un consigliere leghista. La Guardia di Finanza però non si è fermata al PDL e alla Lega, acquisiti atti anche presso i gruppi di opposizione del centro-sinistra. Quello che ha tutte le carte in regola per rivelarsi un nuovo scandalo nasce dalle verifiche sul leghista Davide Boni e sull'ex assessore del PDL Franco Nicoli Cristiani, arrestato un anno fa. Nelle inchieste in cui sono coinvolti risultano alcune intercettazioni in cui si parlerebbe di cene dal carattere istituzionale e che invece poco avrebbero avuto a che fare con la politica. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alessandro Sallusti, direttore del giornale, è stato assolto dall'accusa di evasione dagli arresti domiciliari. Il giornalista, che deve scontare una condanna definitiva a 14 mesi per l'accusa di diffamazione, dopo la notifica del decreto che disponeva per lui di scontare la pena ai domiciliari, aveva violato le disposizioni del giudice. Assalto ad un furgone portavalori lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione Bari. Tre veicoli sono stati dati alle fiamme per bloccare il furgone. L'assalto è avvenuto poco dopo le 8. Un gruppo armato a bordo di tre auto composto da 7 o 8 uomini ha prima affiancato e poi bloccato un furgone della società Aquila. Rischio chiusura di fatto per l'Agenzia Nazionale dei Beni confiscati alla mafia. Un patrimonio da 12.000 beni e la spada di Damocle della chiusura. Rischia di interrompere di fatto ogni sua attività l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Mafia. Alla fine dell'anno, infatti, potrebbe trovarsi senza personale, visto il parere negativo del Ministero dell'Economia alla possibilità di avvalersi ancora di funzionari di altre amministrazioni, di fatto la totalità degli attuali 62. La copertura finanziaria non risulta idonea, scrivono da Via 20 Settembre in un documento inviato a Palazzo Chigi in cui si dà il parere contrario, appunto, alla proroga della assegnazione di personale di altri uffici. Un documento che ha messo in fibrillazione l'agenzia, aperta solo 2 anni fa a Reggio Calabria, dopo la bomba e il bazooka per i magistrati. Ora conta 5 sedi e confida nella legge di stabilità per la sopravvivenza, come spiega il direttore generale Massimo Nicolò. Se le norme concernenti l'agenzia non dovessero trovare applicazione dentro la legge di stabilità, praticamente a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'agenzia rimarrebbe soltanto con 30 persone costrette a gestire 5 sedi. Evidentemente non potrà essere in condizione di assolvere il proprio incarico con efficienza. Invece la legge di stabilità quante persone potrebbe mettervi a disposizione? Massimo 100 persone. Questa è solo l'ultima puntata sulla gestione dei beni confiscati affidati prima ad un commissario straordinario, poi al demanio, quindi ad un'agenzia ad hoc, ed ora si cerca di evitare la chiusura. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, 2 militari italiani trattenuti in India da 10 mesi in attesa del processo per il presunto omicidio di 2 pescatori locali, hanno presentato all'alta corte del Kerala la richiesta di poter trascorrere il Natale con le rispettive famiglie in Italia. Lo riferisce la stampa indiana, mentre prosegue l'attesa per il pronunciamento sulla giurisdizione del caso da parte dell'alta corte di Nuova Delhi. La corte del Kerala, secondo quanto si è appreso, non ha risposto alla richiesta avanzata direttamente dai 2 marò e l'Italia sta intensificando le sue pressioni sulle autorità indiane affinché la sentenza della Corte di Delhi possa essere emessa prima del 17 dicembre prossimo, quando inizierà un nuovo periodo di ferie giudiziarie. Fiaccolata per giovedì 20 dicembre alle 17 in via 20 Settembre per protestare contro il taglio dei posti letto e la chiusura degli ospedali prevista nella regione Lazio dal commissario straordinario per la sanità Enrico Bondi. Lo annuncia in una nota il segretario dell'UGL Lazio Daniela Ballico e il segretario dell'UGL Roma Cristiano Leggeri. È dedicato a film e libri di mafia il Courmayeur Noir in Festival, che si conclude domenica. Anche saggi e romanzi possono aiutare a costruire una coscienza antimafiosa, come spiega il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, presente al Festival. I libri sono indispensabili, come tutte le forme di comunicazione, per aiutare a creare la cultura antimafiosa, perché la mafia è un fenomeno complesso che cerca di catturare il consenso. Ha ucciso persone che la contrastavano con la parola. In Sicilia ha ucciso 8 giornalisti e 1 a Napoli, Giancarlo Siani. E quindi ha paura della parola. Come tutti i regimi autoritari, non ammettono il dissenso. Quindi creare attraverso i libri, ma attraverso tutti i mezzi di comunicazione, i media, anche le fiction, i film, la TV e tutto quanto, significa aiutare a far passare i cittadini dalla parte dello Stato. Un ritratto impietoso ma gustoso della nostra classe politica ce lo offre come sempre Antonio Albanese nelle sale da ieri con il nuovo film Tutto, tutto, niente, niente. Sentiamo Albanese. Con l'ironia, insomma, anche in momenti come questi, soprattutto in momenti come questi, insomma, ci può davvero tanto aiutare. È un mio modo così, in modo grottesco, è un po' psichedelico di rappresentare questo che io chiamo negazioni, queste che io chiamo, come dire, follie. Infatti noi all'interno del film c'è questo sottosegretario, che più che un sottosegretario siamo un'iguana, dice queste 3 cellule impazzite. E allora a me rimane ancora, io rimango ancora quotidianamente quasi scioccato nel pensare che dei personaggi così biechi, così ignoranti, perché ignoranti sono, così stupidi, gestiscono ancora delle piccole e delle grosse comunità. Questo Io per questo insisto ancora su questo, e bisogna ridere di questo e non animare o rianimare come capita in tanti salotti politici, dove magari un quarto d'ora prima uno ha commesso cose spaventose e viene in un certo modo santificato all'interno di questo salottino o di quei 10.000 salottini che trattano di politica, che veramente hanno spaccato le palle, scusatemi, non se ne può più. No, no, allora ma bisogna cercare, come dire, di denunciare questa cosa, e ci sono mille modi, Ritti, poteri, gioie, felicità, potete entrare ovunque voi, che è quello che si sono aspettati sempre un po' tutti questi politici. Non solo spumante e vino, quest'anno il Natale e il Capodanno saranno bagnati anche di birra. Secondo le stime di Assobirra, l'associazione che riunisce i produttori industriali e artigianali di birra, infatti, tra dicembre 2012 e gennaio 2013 gli italiani sorseggeranno circa 2 milioni di ettolitri di birra, vale a dire il 12% dei consumi annuali. La birra ha ormai conquistato il 71% della popolazione, 36 milioni di italiani, di cui 16 milioni sono donne. È tutto per questo notiziario curato da Daniele Biacchessi, un ringraziamento a regia Gianmarco Ferronato, un saluto e un augurio di buon pomeriggio da Adriana Fracchia. GR24 torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola per la seconda edizione del GR Spettacoli. La spiegazione del mio no è la più semplice. Così Gabriele Salvatore schiarisce dal Courmayeur Noir in Festival la sua rinuncia alla direzione del Torino Film Festival. Nelle ultime settimane hanno subito una vera accelerazione i miei impegni dietro la macchina da presa, ha detto. E al Courmayeur Noir in Festival anche giovani film italiani. Cose cattive, prodotto da Luca Argentero, opera prima di Simone Gandolfo, è un horror che si ispira al mondo del web, un film girato in inglese. Simone Gandolfo. Per venderlo all'estero, perché l'Italia è un mercato malato e secondo me avremmo già dovuto cominciare da un po', ma è indispensabile pensare a un cinema europeo, perché Non si può pensare a un cinema italiano, insomma, è utopistico, è inesportabile, soprattutto quel tipo di film, insomma, magari un film d'autore che racconta una realtà particolare, non che io credo che il mio non sia un film d'autore, però è un film che è ambientato in Italia perché io sono italiano, ma potrebbe essere ambientato in qualsiasi parte del mondo, no? E quindi si usa convenzionalmente l'inglese perché è una lingua internazionale in qualche modo. La scelta del genere è perché, parlando di adolescenti, secondo me è buona educazione, come dire, che i primi tuoi spettatori siano coloro di cui parli, e quindi era necessario creare, insomma, usare il contenitore del genere, che poi secondo me è quello che è come se fosse un vestito che tu metti intorno alla storia e ti consente di raccontarla in maniera più fluida e fruibile. Al noir anche documentari. Parla di Palermo, il secondo tempo, firmato da Pierfrancesco Lidonni. Allora, il secondo tempo è la città che avrebbe potuto essere e non è stata, e poi è cosa si fa quando finisce un'emergenza democratica e ricomincia la quotidianità. Ho voluto chiamare così il film perché appunto Palermo sta vivendo un suo secondo tempo, ovvero ha un po' dimenticato lo spirito del 92, che chiaramente non è uno spirito legato alla morte di Falcone e Borsellino, ma è uno spirito legato alla rinascita della città, alla rinascita di Palermo, che grazie purtroppo alla morte di Falcone e Borsellino decide di rialzare la testa e di non girarsi più dall'altro lato. Stefano Grossi con Nel paese di Gira la ruota è andato invece a indagare nell'inchiesta di Calciopoli. Questo film è un film laico. Il film comincia appunto con una riflessione molto intrigante che mi aveva colpito già in forma di articolo scritto di Mario Sconcerti sul fatto che su Calciopoli è in atto una guerra di religione. Ecco, questo è un film totalmente laico che cerca più che altro di schiarire delle zone d'ombra, non ci riesce fino in fondo, anzi, anche perché c'è una valanga di roba ancora da scavare, ma l'atteggiamento è un atteggiamento assolutamente laico, cioè qui non si tratta di scannarsi, si tratta di capire, che è sempre la cosa più complessa, ma l'intento è assolutamente quello, chiamando le cose però col loro nome e non nascondendo nulla praticamente. E per il GR Spettacoli è tutto, da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.